Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi, oggi è il 13 di febbraio, associazione a delinquere nella regione Lombardia. Questo è il nostro titolo di oggi. Roberto Formigoni sarebbe stato, secondo gli inquirenti milanesi, promotore e organizzatore di una associazione a delinquere, avrebbe garantito dal 97-2011 favori alla Fondazione Maugeri e tra il 2002 e il 2011 al San Raffaele. Si parla di utilità per 8 milioni di euro. Secondo voi è giustizia ad orologeria, come dice lo stesso Formigoni oggi a pagina 7 di Repubblica, come dice anche pochi minuti fa in qualche modo Roberto Maroni e anche Raffaele Fitto, che è stato condannato pochi secondi fa, ha detto magistratura entra in campagna elettorale, oppure quelle accuse dei magistrati di Milano, ma anche le accuse per Fitto, sono verosimili, quelle per esempio di Formigoni. Non mi fa un po' un effetto sapere che un presidente, ex presidente della regione Lombardia come Formigoni venga accusato addirittura di associazione a delinquere? Allora cominciamo subito a darvi il nostro numero di sms, lo sapete, 349-238-6666. Mi collego subito con Raffaella Calanda, che abbiamo inviato al Tribunale di Milano. Sì, Daniele, buongiorno. Allora, nel quadro di oggi, ecco, dopo l'avviso di chiusura d'indagine di ieri, chiaramente il quadro di oggi è quello della ricostruzione di tutti gli atti dell'inchiesta sulla Maugeri. Sono 4 CD con 122.522 pagine, e già questo dall'idea dell'imponenza di questa inchiesta per la ricostruzione appunto di un'indagine che ipotizza, come dicevi, una associazione a delinquere all'interno della regione Lombardia nella gestione di due eccellenze della sanità come il San Raffaele e la Maugeri. Dopo l'avviso appunto di chiusura delle indagini notificato ieri sera, oggi questa mattina qui in tribunale è cominciata la richiesta dei difensori dei 17 indagati, compreso il governatore Formigoni, di avere copia di questi atti, copie che comprendono appunto la storia un po' dell'indagine, che dalla informativa della Guardia di Finanza con le ricostruzioni di tutti i movimenti dei conti degli indagati agli interrogatori di due tecnici della regione che ai magistrati avrebbero confermato tutte le loro perplessità anche in circa alcune delibere considerate troppo favorevoli alla Maugeri. E quella, insomma, questi saranno gli atti che poi nei prossimi giorni cercheremo appunto di avere, di raccontarvi nel dettaglio, e che sono quelli che vengono considerati dei capisaldi di questa indagine. Certo, ed ecco, intanto che... ecco, siccome abbiamo poco tempo oggi, perché poi abbiamo un'intervista a Monti in America 24, già ci sono, come era del resto prevedibile, nostri ascoltatori divisi, del resto come anche la politica. Da Giuseppe che dice: Formigoni prima deve pensare a rispondere alle tante domande su perché ha accettato i regali e i viaggi senza giustificazione, e poi potrà parlare di giustizia ad orologeria. C'è chi come invece Antonio dice: non diciamo stupidaggini, per cortesia, non è giustizia ad orologeria. Altri invece dice: è assolutamente giustizia ad orologeria, per non parlare del Monte dei Paschi di Siena, che è anche quello che sostiene a pagina 7 oggi di Repubblica il governatore lombardo. Allora vediamo allo specifico. Qui stiamo parlando di 8 milioni di euro, queste sono le utilità. Tu hai potuto vedere questa lunga scia di presunte regalie che sarebbero state fatte nell'ambito di questa inchiesta. Sì, nell'avviso di conclusione delle indagini una parte centrale è proprio il dettaglio di come questi 8 milioni di euro che sarebbero andati a diretto beneficio di Formigoni sono stati spesi. Ci sono i 4 milioni per l'acquisto e l'utilizzo di alcuni yacht, ci sono le spese per le vacanze, appunto, compresi i famosi Capodanno di cui tanto si è parlato ai Caraibi, e questi sono stati 638.000 franchi svizzeri. Ci sono poi ancora le spese per l'acquisto di acquisti anche importanti anche di orologi, oppure ancora spese per finanziare la campagna anche elettorale di Formigoni o per anche eventi che in qualche modo potessero essere utilizzati per convogliare il suo consenso elettorale. Queste sarebbero state, oltre poi al fatto che secondo i PM ci sarebbe stata anche una specie di diciamo di dazione di denaro contante a favore di Formigoni, tra i 5.000 e i 10.000 euro che venivano consegnati in diverse occasioni appunto da uno dei mediatori, ossia D'Accò, al governatore per le spese di questi yacht. Questo è il dettaglio appunto che i PM ricostruiscono e contestano a Formigoni, in cui un capitolo importante sono le spese anche appunto per le vacanze, di cui aveva anche parlato in una molto forte lettera al Corriere della Sera la moglie di uno dei mediatori di Formigoni, ossia Antonio Simoni, cioè uno dei mediatori, viene considerato uno dei mediatori tra la Maugeri e la Regione, Antonio Simoni, anche lui indagato. Ebbene, Carla Vites, che anche lei ora resta indagata in questa indagine per una vicenda di riciclaggio, aveva ricordato al governatore di quelle vacanze fatte insieme appunto con il marito Simone, e oggi lei stessa, anche se con l'amarezza di essere finita lei stessa nelle indagini, in qualche modo conferma appunto tutto quello che aveva già riferito. Sentiamo. Sono stata iscritta nella lista di indagati nonostante tutto e nonostante la mia totale estraneità a tutto. Sono esterrefatta, io per prima, avrà visto che sono stata inclusa sono chiuse le indagini, mi hanno messo come estrema razza, alla fine ci sono finita anch'io. Lei ha raccontato cose di cui lei stessa è stata testimone diretta, vuol dire quelle vacanze, semplicemente rispetto alla... allusione, anche dei rapporti che c'erano anche tra suo marito e il presidente Formigoni, giusto? Sì, che era sotto gli occhi di tutti, oltretutto. Ne ho parlato io, ma l'hanno visto dozzine di persone, quindi non è che io abbia accampato e inventato nulla. Vabbè, lei l'ha scritto anche pubblicamente, anche in una lettera al Corriere. Lei ha voluto in qualche modo, come dire, rinfrescare la memoria, diciamo così. Sì, per far vedere che appunto quella cosa mi indignava comunque a me per prima, invece a quanto pare in Italia non paga questo essere onesti. Grazie dunque a Raffaella Calanda in diretta dal Tribunale di Milano. Abbiamo sentito Carla Vites, la moglie di Antonio Simone, amico di Formigoni, entrambi indagati nell'ambito di questa inchiesta sulla Fondazione Maugeri. Gli sms sono continui, sono tantissimi. Dice: la giustizia è uguale per tutti, dice Mauro, non è ad orologeria. Chi dice se uno dei migliori sistemi sanitari d'Europa è una situazione per delinquere, le altre come Campania, Sicilia, Piemonte che cosa sono? Dice Giorgio da Torino. E poi ce ne sono molte che vanno nello stesso senso, cioè quando politici governano per troppo tempo è scontato che la gestione della cosa pubblica lo possano rendere vulnerabili, quindi chi dice corrotto, chi dice corruttibile. Va bene, grazie a tutti. 13 febbraio, domani alla stessa ora, vi ricordo Facebook, abbiamo la pagina e il gruppo, poi su Twitter contoluce@radio24.it. Vi saluta qui Daniele Biacchese.